Il ladro e il cavaliere consumano ciascuno 2,5 kg di provviste al giorno. Il druido consuma 3 kg e il mago solo 2 kg. Considerando che il viaggio durerà 2 giorni, quante provviste dovrete raccogliere in totale?